mare terre, non ne posso più, c'è il popolo che tace, e la Rai TV ci dice necessario per la pace. Non ne posso più di basi della NATO, non ne posso più di chi ci ha liberato, non ne posso più di atomiche qui in casa, e la Rai TV ci dice guarda il lancio della NASA. Se in Iraq ci va il plotone, urge un taglio all'istruzione, in Afghanistan bombarda, taglia la cultura azzarda, per la Libia manda i droni, puoi tagliarci pure i coco. Non ne posso più di spendere tutto in armi, non ne posso più, sono costretto ad arruolarmi, non ne posso più della bomba intelligente, e la Rai TV ci dice paga il canone utente. Non ne posso più di eroi artificiali, non ne posso più di bandiere ornamentali, non ne posso più, c'è il popolo che tace, tace, e la Rai TV ci dice abbiamo schianciato la pace. Se in Iraq ci va il plotone, urge un taglio all'istruzione, in Afghanistan bombarda, taglia la cultura azzarda.